Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. È nato a Milano nel 1974. Affascinato da subito dalla musica, scrive le prime canzoni negli anni del liceo. Si laurea in letteratura italiana con una tesi sui testi di Francesco De Gregori, il suo primo singolo nel 2001, il primo album nel 2005, anno in cui diventa anche collaboratore della cattedra di letteratura italiana all'Università Statale di Milano. Nella 2007 il secondo album, Da casa a casa, poi il romanzo scritto a quattro mani insieme all'amico Alessandro Cattelan, Ma la vita è un'altra cosa. Intanto scrive per Eros Ramazzotti, Mietta e soprattutto Laura Pausini, con la quale riceve a Los Angeles il premio ASCAP Awards. Ora è uscito il suo terzo album, Non vale tutto. A lui la critica ha riservato solo recensioni entusiastiche. Lui è Niccolò Agliardi. Ci sono due cose da dire in merito. Il fatto che sia piacevole leggere le recensioni e le critiche positive sul proprio lavoro, vabbè, è indubbio, è scontato, insomma non spenderei nemmeno altre parole. Poi, sai, la categoria dei giornalisti, e tu penso che la conosci, è una categoria bizzarra, nel senso che secondo me ogni tanto bisogna espiare delle colpe, tanto si è feroci su alcuni soggetti, tanto ci si può redimere parlando bene di qualcuno inoffensivo. Io sono inoffensivo, tutto sommato, nel senso che si può parlare bene di me perché, guarda, è una specie questa di confessione, no? Però non faccio male a nessuno, non sono scomodo, sono uno che comunque vive nel proprio orto, non do fastidio, non sono nemico di colleghi, cioè non vendo dischi, no? Perché non perché io nello specifico non ne venda, ma capito in un momento in cui i dischi non si vendono, e quindi sostanzialmente non c'è attorno a me un giro brutalmente detto economico tanto da destare sospetti, quindi ho semplicemente fatto un disco, credo fatto bene, che per fortuna sta piacendo a tanti e che con grande onestà non dà fastidio perché è un prodotto che secondo me è gradevole, può suscitare, anzi suscita sicuramente delle inaspettate emotività, e quindi posso solo dirti che mi fa piacere quando leggo bene di me, e laddove dovessi leggere male, per fortuna non sono uno che gli cambierebbe l'umore se dovessi leggere una recensione negativa, perché comunque sempre di musica si tratta e sempre di soggettività si tratta. A Wind Music Award, allora sì, avanti, Niccolò Agliardi, oh! A questo punto però non posso non chiederti se al giorno d'oggi, allora a questo punto, possa pagare dare fastidio. È una buona domanda questa, paga anche dare fastidio, sì certo. Perché comunque, comunque vai a scardinare un meccanismo dove tu sai bene quanto sia importante la notiziabilità di qualunque cosa, la comunicazione di qualunque cosa. E quindi se qualcuno si scagliasse profondamente contro di me, potrebbe anche essere funzionale, no? Cioè nel senso, come fino adesso si dice che è tutto così a posto, è tutto così edulcorato, è tutto così grazioso, sto utilizzando termini che non mi piacciono per andare in distorsione, no? A un certo punto arriva uno che dice questo disco è terribile, questo disco non ha nessuna ragione per essere ascoltato, questo disco è imbarazzante, sai che io però lo ascolterei a quel punto, mi incuriosirebbe. Vedi che si finisce in fondo per dimenticare. Non mi ricordo se era quello che volevo, da quanto non ti scrivo, la mia memoria è breve, o avevo un buon motivo. Questo disco, che percorso hai fatto per arrivarci? Sei partito da casa prima, e come sei arrivato a quest'altro invece? Sono partito da casa, sono tornato a casa e ho deciso di ripartire, semplicemente. Sono uno che vuole fare dischi e non perché per finire sul mercato, perché tanto si diceva prima il mercato non ha bisogno di me, ma sono io che ho bisogno di forse comunicare. Il mercato non c'è più. o forse il mercato è agonizzante completamente, lo stiamo per abbandonare. Insomma, abbiamo provato a dargli questi ultimi colpi di rianimazione, ma neanche i talent ci sono riusciti veramente, quindi io credo che il mercato oggi veramente sia, no, deve trovare un'altra formula, insomma. È sfinente ed è struggente vedere soprattutto coloro che ci lavorano in serissima difficoltà. Comunque questo disco nasce proprio dalla necessità di raccontare qualcosa. Ovviamente, come tutti, mi perdonerai, gli artisti, mi perdono in questo termine, hanno bisogno di raccontarsi, hanno bisogno di tutelare la propria vanità, il proprio narcisismo, il proprio ego, e qualche volta anche pensieri che sperano di poter condividere con qualcuno. Penso che questo disco sia il riassunto di questo. L'ultimo giorno d'inverno non sarò qui, dove sono ora, perché non farà così freddo fuori come fa adesso. E non sarò da solo a casa ad aspettare che passi l'inverno. Io non lo so se sarò con te. È più probabile che anche tu sia altrove. E se ci sarà qualcosa che mi infastidirà, dirà, perché mi conosco e ci sarà. E che tu non ti sarai nemmeno accorta dei viali di Milano che saranno diventati rosa e bianchi ai lati. Parlo di un saluto al dolore, parlo di una primavera, parlo della mia città, parlo dell'amore smisurato che mi illumina gli occhi quando parlo dei miei amici. Parlo ancora una volta di una donna che ha scelto di fare passeggiate alterne interne nella mia vita, e parlo anche dei miei genitori, parlo della mia realizzazione, insomma sono un uomo che sta, hai visto cosa ho detto, sono un uomo, non mi sono neanche tradito, sono un uomo che sta facendo la vita che ha sempre sognato di fare. Grazie. Senti, davvero. Prima di andare via, una cosa che ci tengo molto, ci tengo particolarmente a dirla, tu stai scrivendo quasi tutti i testi del nuovo album di Laura Pausini? Di Sua Maestà Laura Pausini. Di Sua Maestà, sì. Laura Pausini, che la salutiamo se ci sta guardando. Salutiamo, un disco che uscirà l'11 di novembre, un disco bello e coraggioso, e sono felicissimo di esserne. E lei è una donna parte. Molto coraggiosa. È così. Perché c'è pudore nel dire la parola artista e poi anche questa sottolineatura sull'uomo? C'è pudore nel usare la parola artista, perché la parola artista è propria di coloro che hanno dimostrato ampiamente nel corso del tempo di saper fare il loro lavoro, di farlo in preda soltanto alla loro forte emotività, alla loro forte creatività. Io sono uno che invece sa molto bene quanto costa il prosciutto cotto rispetto a quello crudo, so aggiustare una lampadina, so pensare che ci sono delle priorità e che ogni tanto valga la pena rispettarle. Sono uno che ha deciso di vivere socialmente in un gruppo amicale e sono tutte considerazioni che non dico che non siano compatibili con l'essere artista, però io sono figlio di una famiglia dove esistono almeno due artisti in famiglia e so quanto non dormano per la loro arte. Io tutto sommato senza pastigliette dormo bene, quindi secondo me, e non sono neanche uno in pace troppo con me stesso, però sono in pace col sonno, sono in pace con la creatività che è addestrata al pomeriggio. Insomma, è un lavoro, per me è un bellissimo lavoro, è un lavoro che è fatto di suggestioni ma anche di tecnica, e insomma forse non sono così stravagante come ogni tanto gli artisti mi sembra che siano. E quando invece ho sottolineato la parola uomo, perché a 36 anni e ti viene spontaneo dire sono un uomo, e fino all'altro ieri dicevo sono un ragazzino e probabilmente sbagliavo fino all'altro ieri. Ah, mi manca da vicino, è sempre dove sono eppure non si vede, e io che sono stanco di quest'ansia che mi uccide. 36 anni, siamo in una generazione, facciamo parte di una generazione in cui sembra scontato per fare mille cose, scrivi, fai l'artista o sei un artista, la radio, scrivere anche sulla carta, insegnare, perché serve, perché fa parte di te, perché non vuoi rinunciare a niente o perché cosa? Perché io ho molto tempo libero, nel senso non dovendo andare in un ufficio e non dovendo stare 8 ore al giorno, magari 2 delle quali su Facebook, io sono innamorato perdutamente della vita, ma non come le veline, sai che le veline dicono ma tu sei innamorato, no, della vita, no, io mi addormento tardi, ma perché mi piace tantissimo vivere, perché tutto quello che faccio mi appassiona moltissimo, non faccio nulla che non mi appassioni. Sì, ecco, pagare le bollette, ma quello fa parte del mio non essere artista, che so perfettamente quando devo fare certe cose. Adesso non è che mi sto sgravando dal titolo di artista perché sono entrato nella parte, sto semplicemente dicendo che mi piacciono moltissimo le cose che faccio, mi piace cadenzare la giornata, mi occupo di cose che mi appassionano e quindi tutto quello che faccio me lo sono cercato, me lo sono studiato, me lo sono costruito. Un po' nell'eccentricità, ma un po' anche nella disciplina, ecco. La stavano aspettando a Parigi negli anni 50, ma è nata 30 anni dopo e qui non c'entra. Simona ci insegna che tutto il futuro è un regalo di chi lo inventa. Allora... chiedo un'ultima domanda anche perché ce lo dice la batteria. Cosa ti aspetti adesso da questo disco? Ce l'hai qualche aspettativa o... Se ce lo dice la batteria che dobbiamo chiudere, mi aspetto il meglio possibile. Nicolò Agliardi! Ed è tutto per il nostro appuntamento di oggi. Le voci in scena tornano lunedì. Da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.